Le montagne sono salite verso il cielo. All'imbrunire respiro solo il gelo. Dal fucile ancora un soffio di calore che soffia sul vessillo ornato con un fiore. Un fior d'aliso piantato in questa terra, bianco come il potere, rosso come la guerra, verde come la speranza di guardare leggera la tua veste nell'aria volteggiare. Danza per me, Maria, cura la tua follia. Danza nel vento che servo non è, come il pregante innamorato di te. Sei tu la storia che voglio ricordare, il sole che dà buoni frutti da mangiare, la pietra bianca dove abita il mio cuore, l'amore conquistato imbracciando un fiore. Danza per me, Maria, cura la tua follia. Danza nel vento che servo non è, come il pregante innamorato di te. Danza per me, Maria, cura la tua.